Questo è un periodo un po' strano, perché succedono cose veramente strane e per raccontarle bisogna fare pure un po' attenzione, perché si potrebbe offendere anche qualcuno. E quindi per dare un attimo questa, cioè per dare proprio la prima parte, quella del buongiorno, quella tradizionale che cerco di inserire, vorrei raccontare una cosa, ma non la posso raccontare, è un po' particolare. Però sono venuto a sapere questa mattina, poi chissà se è vero o non è vero, chi lo sa, perché poi oramai dopo diventa veramente tutto un po' una grossa confusione, no? Diventa tutto un grande casino. Sono venuto a sapere questa mattina che praticamente, insomma, succedono delle cose sconvolgenti in ospedale, perché magari tu entri malato, magari moribondo, insomma, perché magari c'hai 150 anni e stai per morire, giustamente, purtroppo anche. Però alla fine, insomma, cercano di curarti, fanno quello che si può fare, insomma, nei limiti del possibile, e poi a un certo punto magari purtroppo non va a finire bene, anche perché l'età è quella, perché... insomma, è la natura, fa parte della vita, insomma, in qualche maniera c'è un momento in cui i nostri cari ci lasciano, no? se ne vanno, ci abbandonano, muoiono, purtroppo, no? E poi però in un periodo come questo che succede? Succede che il primo interrogativo, quello naturale che viene a tutti quanti, è: ma di che è morto? Di che è morto? Se muore anche di vecchiaia, no? Però è chiaro che oggi il grosso interrogativo è Covid, non è Covid e via dicendo. E praticamente, se ti dicono che è Covid, ho sentito, insomma, che oggi c'è questa interpretazione della questione, ossia sì, magari è Covid, però in realtà secondo me ti dicono che è Covid perché gli ospedali così ci prendono i soldi. Allora, quando poi uno viene a sapere così queste cose prima mattina, può essere un buongiorno? Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sto un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico, smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non ce n'è niente! Pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Long time radio! Ne fa un'altra! Insomma, sicuramente ce ne sono sempre delle belle, ne sentiamo sempre tante e dobbiamo continuare a sentirne, perché probabilmente continueremo a sentirne altre. Insomma, non credo che questa cosa passerà. E diciamo che questa cosa poi casualmente si ricollega un po' a quello che è il tema della puntata, anche se quest'oggi io vado a braccio. Intanto saluto Robby, saluto Al, tutti quelli che sono in chat, che se c'ho modo, dopo magari quando faccio una piccolissima, brevissima pausa musicale, magari vi leggo, perché parlare, gestire la regia e leggere anche la chat non ce la posso fare. C'ho dei limiti miei oggettivi che sono veramente importanti, e chi mi conosce, insomma, lo sa. Però al di là di questo, dicevo, c'è una correlazione, perché io Non so se chi di voi, insomma, ha conosciuto Enrico Berlinguer, non conosciuto personalmente, ma insomma come personaggio politico. Enrico Berlinguer ci ha avuto il pregio di aver portato il Partito Comunista Italiano in un'era moderna, in un'era democratica, cioè cercando di fare una prima fase, una prima trasformazione verso un grande movimento politico di sinistra che si svincolasse un pochino da determinati concetti, da determinati presupposti, che poi sono i presupposti che dicevo l'altra volta quando parlavo del famoso giornale Lotta Comunista, dove loro accampano proprio sotto al titolo la lotta contro la democrazia parlamentare in favore della dittatura del proletariato, no? E questo insomma è sempre stato un po', come posso dire, il presupposto del comunismo e dei vari movimenti comunisti. C'è stato un momento in cui praticamente alcune realtà insomma importanti si sono distaccati da questo, tant'è che il tentativo poi di portare il Partito Comunista nell'Internazionale Socialista era comunque un grosso segnale. Quello era un periodo poi, tra l'altro, dove in Italia succedeva un po' di tutto, insomma c'erano le stragi coperte anche da alcune parti, apparati dello Stato, c'erano i servizi segreti che comunque gestivano tramite ovviamente gli interessi degli Stati Uniti, in una condizione geografica come quella nostra, che era profondamente strategica, c'era tutto un tentativo di controllo all'interno di quello che era la nostra condizione democratica, no? Voi ricorderete anche poi quando uscì la questione di Gladio con Cossiga e via dicendo, e quindi tutto quei sottoapparati, insomma, in un periodo in cui poi tra l'altro buttavano giù aerei per ammazzare qualcuno perché magari chissà che dovevano coprire o chissà che cosa succedeva in quel periodo. In un periodo molto più largo, chiaramente non stiamo parlando proprio dello stesso periodo, però diciamo per contestualizzare il fatto che c'era gente che diceva delle cose sulla morte di Enrico Berlinguer. Enrico Berlinguer si sentì male durante un comizio e poi da lì a breve morì per un'ischemia, un ictus, adesso non ricordo neanche bene un po' com'era la questione, però insomma ci ha lasciato così, insomma nel massimo del suo impegno, della sua passione, che era quella ovviamente della politica, del comunicare ovviamente con la gente. E questa cosa diede adito praticamente a tutta una serie di piccole informazioni. Se tu partecipavi alla vita politica di sezione del partito, via dicendo, c'erano tante persone tra i più anziani, magari quelli un po' più rustici, diciamo così, che dicevano che Enrico Berlinguer in realtà non si era sentito male, ma era stato ucciso dagli americani, dai servizi segreti americani, tramite un laser invisibile durante il comizio, che gli aveva fritto il cervello e che quindi era morto. Dico complottismi così, in realtà ce n'erano tanti nel sottobosco della politica italiana, no? Nelle discussioni da bar. Molto prima di X-Files in Italia, in realtà si parlava di queste cose, di questi connubi, no? Tra servizi segreti, complotti, terrorismo, tutto un pastume, no? Cioè, nel senso, ovviamente senza il minimo collegamento storico, la minima cognizione reale di quello che si diceva, però per un certo verso quel tipo di discorso poteva sembrare, come posso dire, coerente, poteva sembrare anche, non lo so, plausibile, perché era un periodo storico particolare, perché era un periodo storico dove succedevano le cose. E noi ancora oggi ne parliamo, no? C'è Paolini che fa gli spettacoli teatrali cercando di raccontare come è andato riguardo a Ustica, le stragi irrisolte nel nostro paese, quindi cioè, non è che non c'era il motivo per pensare determinate cose, no? C'era un motivo per poter pensare determinate cose, ma era chiaro che insomma stavamo parlando insomma di cose che poi alla fine erano comunque il sottobosco. Ma la cosa bella è che anche se queste cose un po' si propagavano, no? nelle sottoredi, delle sezioni, no? In qualche maniera c'era qualcuno, ovviamente venivano sì ascoltate, ma sempre tenute, no? In margine, perché poi nessuno dava veramente credito a questo tipo di cose, no? Perché sì, ok, poteva anche starci, però insomma sembrava un po' fantascientifico, no? Questi qua con laser che avevano ammazzato Berlinguer, insomma, magari gli avevano messo il veleno nella pasta asciutta la sera prima, cioè nel senso, se proprio uno dovesse andare. Però, e questo è un po' un discorso che c'è sempre stato. Però ultimamente, come ho già detto magari in un'altra situazione, con Michela ci stiamo rivedendo La Notte della Repubblica su Replay. Io, se vi capita, guardatelo, anche se ho l'impressione, sensazione che sia un po' manipolata la questione. Non voglio far complottista, probabilmente magari anche per ragioni tecniche, o come dicono sul Replay, anche per ragioni di copyright, probabilmente alcune cose sono state un po', diciamo, aggiustate, tagliate, accorciate o via dicendo. Però ci sono dei documenti veramente interessanti, e quello che è interessante è che negli anni 70 e 80 la cognizione, la consapevolezza e la capacità di ragionamento politico dell'italiano medio, io non voglio parlare magari di situazioni, che ne so, al limite o via dicendo, però l'italiano medio comunque in qualche maniera aveva una capacità di ragionamento, aveva una sua posizione, aveva una consapevolezza che era anche dovuta dal fatto che la gente leggeva i giornali, seguiva il telegiornale. Ma la cosa veramente interessante era la proprietà di linguaggio. Cioè, comunque le persone che erano capaci di fare un discorso lineare, continuo, anche con digressioni, no? Quindi, cioè, con virgole, sotto virgole, a volte sempre pensieri un po' astrusi, a volte complottistici, appunto. Però era comunque un pensiero elaborato, era comunque anche un linguaggio elaborato. Ed è questo forse il vero grosso problema, no? Perché secondo me sono due i punti fondamentali in cui la degenerazione e il degrado democratico del nostro paese insomma ha avuto inizio, e poi ha avuto anche una certa continuità, che è stato quello della televisione all'inizio, e l'uso della televisione in un certo modo all'inizio, e ovviamente i social media, che poi oramai sono totalmente fuori controllo. Questo non è un problema nazionale, cioè non è un problema italiano, è un problema globale, è un problema che può riguardare ovviamente tutti gli altri paesi, tantissimi altri paesi. Guardate quello che sta succedendo in America, anche se in America comunque non c'è mai stata una consapevolezza politica collettiva così come c'è stata in Italia negli anni 70 e 80. Anzi, probabilmente noi oggi siamo diventati quello che erano gli americani negli anni 60, 70 e 80, con una scarsa cognizione e consapevolezza politica, e una scarsa partecipazione anche al voto. Però è vero pure che gli Stati Uniti sono una realtà vastissima, con delle differenze geografiche e culturali enormi, e probabilmente aggregate soltanto dall'appartenenza ad un singolo governo, chiamiamolo così, anche se poi ovviamente ogni stato è indipendente all'interno della confederazione. Insomma, la confederazione è un po' diverso comunque come tipo di discorso, non mi va di perdermici sopra. Però comunque, ecco, l'italiano o l'europeo in generale comunque aveva una consapevolezza politica che gli americani si sognavano, e noi oggi però siamo arrivati a quel livello di non consapevolezza politica, di degrado culturale e di incapacità anche di esprimere dei concetti, fare delle conversazioni riguardo a questo, a qualsiasi tipo di discorso che possa essere politico, indipendentemente dall'idea. Cioè un discorso lineare con digressioni, con pensieri, con una certa elaborazione anche del linguaggio, oggi è praticamente impossibile, no? Pare che se tu parli con la gente, a parte quello che dice, no? Che comunque esisteva anche prima questo tipo di discorso, però oggi è peggiorato, no? Il discorso è partito a suo tempo con Berlusconi, no? Io lo cito sempre, dice Gelli, quando dice che Berlusconi è riuscito a fare quello che la P2 non è riuscita a fare, no? Perché comunque Berlusconi da solo aveva gli strumenti per poter aiutare un degrado, una degenerazione dal punto di vista culturale, no? E ci sono dei documentari, c'è un documentario in particolare che in questo momento non ricordo come si chiama, ma mi pare fatto da un italiano che tra l'altro vive in Svezia, adesso non ricordo bene, ma comunque comunque c'è questo documentario che racconta il come la televisione berlusconiana ha portato un certo tipo di semplificazione nel tipo di contenuti e allo stesso tempo aumentando e aiutando appunto questo degrado culturale, no? Cioè, perché chiaramente studiare, applicarsi, comprendere le cose è sempre impegnativo, ma quando c'hai una struttura intorno a te, c'hai un mondo intorno a te che comunque ti stimola per forza di cose a cercare di elevarti un pochino, e alla fine anche se è una fatica, anche se è uno sforzo, comunque in qualche maniera ti allinei. Ma quando quello che sta intorno a te, quello che ti viene propinato con una certa velocità, con una certa presenza, con una certa massività anche e diventa un linguaggio semplice, semplificato, fatto di stupidità, di satira banale, dei zinne culi e di quant'altro, certo è ovvio che poi alla fine tu fai in fretta e molto rapidamente ad adeguarti a questo sottodimensionamento, perché è più facile, perché la semplificazione è facile e quindi tu non sei più stimolato ad evolverti, anzi sei stimolato ad omologarti verso il basso, e cominciano poi alla fine tutti quei sottopensieri stupidi, no? Cioè il modo di ragionare più basilare, più semplificato e allo stesso tempo con un linguaggio sempre meno articolato. Questo è un po' il punto di partenza verso quello che è stato un declino della democrazia in Italia. Declino della democrazia in Italia e quindi del pensiero democratico e quindi della presenza critica, della vigilanza democratica da parte del cittadino nei confronti delle proprie istituzioni, che comunque sono parte integrante della propria vita, della nostra vita. Alla fine è chiaro che tutto questo è stato anche assecondato da quella realtà oppositiva, diciamo, di contrasto che ha sempre rappresentato un certo tipo di cultura, un certo tipo di istruzione, un certo tipo di attenzione e sensibilità politica verso le cose più importanti o quelle che comunque ritenevano più importanti, ossia quella sinistra che a un certo punto si è trovata non solo demonizzata da Berlusconi, che aveva chiaramente gli strumenti per entrare dentro le case della gente dicendo che i comunisti si mangiano i bambini, quello che, cioè, quindi riuscendo a fare quello che non è riuscito a fare la Democrazia Cristiana, che sì, lo diceva che i comunisti si mangiavano i bambini, però sta cosa non è mai penetrato fino in fondo. Con Berlusconi sta cosa chiaramente è successa. Quindi la sinistra si è trovata sì spiazzata da una parte, dall'altra si è trovata a delegittimare se stessa, perché per mettere meno paura assecondava il pensiero berlusconiano da una parte, e quindi era diventata quella specie di sinistra riformista social liberale che diceva sì, però l'economia di mercato, sì, andando dietro a quel tipo di discorso, semplificando sempre di più la propria campagna elettorale, semplificando sempre di più il proprio messaggio al pubblico. Perché? Perché comunque oramai un pensiero articolato faceva paura, perché più la gente ragiona semplicemente, più si abitua a ragionare semplicemente, e più un pensiero evoluto, un pensiero più articolato non lo comprende. Ed è quello che sta succedendo oggi. Oggi la gente non lo capisce il pensiero più evoluto, capisce la persona che in maniera bislacca, così, proprio come se fosse il bambino dei 10 anni, dice loro non hanno vinto le elezioni perché le hanno truccate, e non fa niente di mostrare o non dimostrare il proprio pensiero, perché oggi anche dal punto di vista scientifico, no? Dice guardate, ci sono delle ricerche, ricerche. Questo è un po' la cosa allarmante in un paese che a me quello che veramente un po' sconvolge di più è il fatto che l'Italia da un punto di vista strettamente culturale e politico ci ha avuto una tradizione importante, ragazzi, ma veramente importante, non è una cosa così banale, no? Non a caso comunque noi siamo stati tra i fautori dell'Unione Europea, non a caso comunque in Italia c'era il 50% quasi il 50% della popolazione che sosteneva dei movimenti di sinistra veramente forti, che hanno dato comunque un forte impulso dal punto di vista democratico, ma anche dei diritti civili, tutti quei diritti che a un certo punto la gente ha cominciato ad auto eliminarsi, cioè nel senso, comunque, cioè la gente si era talmente convinta che lo Stato era un'azienda, che alla fine non ci pensava neanche più al fatto che magari questa cosa andava contro i propri diritti, perché andava più di moda dire: oh ragazzi, è giusto, perché mica che si può dare assistenza a tutti, questa cosa, i diritti del lavoro, non si può licenziare la gente. Cioè, nel senso, è come se io, non lo so, faccio Runtime Radio e dico: beh sì, però è giusto che nessuno deve fare le radio. Cioè, è talmente un controsenso, è talmente il segno e il simbolo di un lavaggio del cervello che la gente non si è resa conto. E poi la cosa è ancora più assurda, perché tu mica gli puoi dire alla gente, vabbè, questo è un po' come se ti vengono da te e vengono a dire: oh, sei stupido, no? Cioè, nel senso, è normale che non l'accetti come tipo di discorso. Però insomma, non è che a volte io farei un discorso, cioè, quando fanno dei ragionamenti così banali, così semplici, io vorrei: ma te non ti sembra, cioè, nel senso che manchi qualcosa in questo ragionamento? Non so, a volte in realtà, vabbè, forse perché sto anche invecchiando, perché ho quasi 50 anni, a volte mi manca quell'Italia, devo dire la verità. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. La consapevolezza politica ha portato la gente a fare battaglie, lotte. Viva l'Italia. Senza l'Italia che è in mezzo al mare. Mai grossi pentimenti, senza mai grossa paura. L'Italia dimenticata e scendendo per le strade, nelle piazze, andando a parlare con la gente, portando avanti le proprie bandiere, magari a volte con un atteggiamento più violento, più aggressivo, magari a volte anche con un'esagerazione, o arrivando anche con parlamentari che entrano nelle Camere dei Deputati con la fronte sfregiata, sanguinanti, dicendo che sta succedendo qualcosa di sbagliato là fuori. C'è qualcosa di sbagliato là fuori. C'erano anche politici che stavano nelle piazze, c'erano politici che stavano nelle strade, e c'era un contatto diretto con quella realtà, che era la realtà di un paese che ancora era proletario, era ancora operaio e ancora richiedeva ed esigeva i propri diritti, perché c'era qualcosa che non funzionava, e quindi bisognava fare in modo che funzionasse. L'Italia della grande trasformazione, del passaggio da un'era fascista che è perdurata per altri 20-30 anni e che ha provato anche a ritornare a un'Italia più democratica, no? Più speranzosa, più vogliosa, più tante altre cose, ragazzi. Cioè, quello era un mondo completamente diverso, un mondo che, al di là delle sue distorsioni o storture o i propri difetti, anche le esagerazioni, le esasperazioni e anche, come posso dire, il non essere d'accordo politicamente con certo tipo di discorso, comunque è stato un periodo in cui noi abbiamo costruito il nostro futuro. Il nostro futuro che in 20 anni scarsi, ma in un arco dei 30 anni complessivi, abbiamo distrutto e buttato via, mettendo in mano a delle persone comunque il nostro destino. Perché queste persone hanno rifatto tirar fuori agli italiani quello che era praticamente un po' la loro abitudine anche dal punto di vista culturale, ossia il cercare il papa re, il duce, la persona alla quale delegare le nostre idee, delegare le responsabilità, non avere un pensiero nostro, ma avere qualcuno che fa questo tipo di discorso per noi, di cui noi non ci dobbiamo più occupare, non ci dobbiamo più pensare, ci pensa lui che è il nostro capo. E senti la gente che nelle piazze chiama il politico per nome come se fosse il calciatore di turno o via dicendo. Insomma, ragazzi, e questo è un po'. E poi torneremo a parlare su questa cosa, perché c'è una puntata proprio sul complottismo, cioè c'è l'incapacità di capire che un pensiero più è semplificato, più è banalizzato e più ha un obiettivo. E poi io non ho mai creduto in generale alle figure, ai messia, no? Alle figure salvifiche, cristologiche, che vengono da noi e ci salvano, e tutti questi uomini, queste donne che si concedono proprio totalmente a questo tipo di pensiero, a questo tipo di atteggiamento, è una cosa che veramente mi ha sempre turbato, insomma. Questo è un po' il discorso di questa mattina, in questa puntata, che ovviamente in realtà è anche un po' improvvisata, è venuta un po' così, cioè nel senso non ho avuto tempo di prepararla, doveva uscire questa mattina, in realtà poi doveva uscire Data Nightmare perché era in ritardo, insomma tutta una serie di cose che poi alla fine comunque mi hanno portato a rifare anche questa volta una diretta che insomma è veramente molto molto molto molto molto a braccio. Io spero insomma che queste grida, no? questo tentativo di farvi capire che c'è stato un mondo che era diverso da questo, insomma vi porti magari lo stimolo ad andare a ricercare come eravamo una volta, anche per vederlo, non dico per diventare o per tornare come eravamo una volta, ma magari vederlo come modello di quello che potremmo essere, migliorando, perché chiaramente nel frattempo sono cambiati i tempi, sono cambiate è cambiata la società. Quindi io continuo a dire, andatevi a ricercare le bellissime trasmissioni che stanno su RaiPlay, in particolare La Notte della Repubblica, ma ce ne sono anche altre, perché vi fanno vedere un mondo che probabilmente voi non avete conosciuto, molti di voi, perché magari siete un po' più giovani magari di me, o che ve ne siete dimenticati, o che magari del quale probabilmente non ve ne è mai fregato niente, perché nessuno va mai posto la curiosità, insomma, di capire che c'è stato un altro mondo, un'altra storia. Detto questo, io a questo punto vi saluto, ringrazio insomma anche Domenico, che insomma si è aggiunto. Dopo leggerò il tuo commento, purtroppo ho detto, se mi metto a leggere poi non parlo, purtroppo non so multitasking da questo punto di vista, però ti ringrazio insomma anche di essere comunque venuto, magari mi stai criticando e mi stai dicendo che sono una scimmia pelosa, però no, non credo, insomma. Bene, allora io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo che questa sera alle 21 live ci sarà OGM come al solito, e anche lì insomma cercheremo di parlare di politica ridendo, insomma cercando insomma di prendere un po' in giro quello che è la nostra, insomma il nostro mondo, quello che ci circonda anche a livello un po' più globale. Mercoledì sera invece ci sarà una puntata di Everything con me e Michela, con una playlist musicale dedicata alla romanità, quindi questo ci tengo molto. E ricordatevi invece sabato, una cosa che proprio non c'entra assolutamente niente, sabato ci sarà l'ultima puntata, la puntata di addio di videoludica.it podcast, nel quale insomma cercheremo di raccogliere anche i messaggi, i saluti di tutti quelli che vorrebbero magari lasciarci appunto un saluto e un arrivederci. Detto questo, grazie a tutti e mi raccomando, buongiorno sempre, ma buongiorno un cazzo.